Nessun luogo, nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. In a somber development, the bodies of the 10 NGO workers killed by the Taliban arrive in the Afghan capital. It was a total of 10 people who were killed. There were 6 Americans, 1 German, 1 British citizen, and 2 Afghans. And 2 other Afghans actually were not killed. They were allowed to live and apparently are in that region now. L'angoscia delle agenzie umanitarie, così titola oggi in prima pagina The Independent, il quotidiano inglese. Le associazioni umanitarie in Afghanistan devono ripensare la loro posizione dopo l'uccisione di Karen Vu e dei suoi 9 colleghi. Buongiorno e benvenuti a Nessun Luogo è Lontano. In redazione c'è Valeria Coffaro, in regia c'è Paolo Corleone. Allora, Afghanistan, abbiamo deciso di aprire con questa notizia perché l'International Assistance Mission, l'organizzazione cristiana che operava da tempo nel paese medio orientale, sta vivendo un lutto, sta vivendo uno shock, così come buona parte dell'opinione pubblica occidentale. 9 dei 10 medici vivevano o frequentavano il paese da anni. 6 americani, come avete sentito, una britannica, una tedesca, erano in missione nella regione del Nuristan, nel nord del paese, quando sono stati bloccati da una pattuglia dei talebani e uccisi sul posto. Un portavoce dei talebani ha detto che erano spie, che avevano bibbie per convertire e avevano satellitari per monitorare la posizione dei talebani. E ora il mondo degli umanitari e delle associazioni si interroga che cosa fare nel paese. I'm pretty sure they didn't have diary Bibles with them. In fact, we have asked a specific question to one of the surviving Afghans and he said he had seen no Bibles at all. Come sentite la voce di Dirk Franz, che è il direttore di questa associazione cristiana, dice non avevano Bibbie con loro. In realtà poi sulla prima pagina dell'Independent di oggi si viene a sapere che forse sì, avevano una Bibbia per uso personale ciascuno di loro. Think about what you're doing. Is this the best way of serving God? E poi Dirk Franz si rivolge direttamente ai talebani chiedendo, ma è una domanda poco più che retorica, ebbene pensate che sia questo il modo migliore per servire Dio? Allora, gli spunti di riflessione mi paiono essere due. Primo, si trattava di medici, cioè di personale che cura i feriti, che ha a che fare direttamente con la popolazione. Secondo, l'associazione era cristiana e questo fatto pare essere stato uno dei detonatori della violenza. Gino Strada di Emergency ci ha appena confermato che per lui non cambia niente, che va avanti con il suo lavoro. MSF, Medici Senza Frontiere, in uno comunicato ufficiale esprime vicinanza e cordoglio ai familiari delle vittime. E allora do il mio benvenuto e il mio buongiorno a Stefano Pizziali, responsabile CESVI Sicurezza. Buongiorno Pizziali. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Stefano, voi come CESVI, che è questa ONG italiana, siete presenti dal 2001 nel paese, avete, come dire, uno storico abbastanza ampio. Quanto è peggiorata la situazione in Afghanistan? E noi abbiamo lavorato nel 2001 fino al 2005 in Mazar-e Sharif e in Kabul e abbiamo visto purtroppo peggiorare la situazione di sicurezza in tutto il paese. Tant'è che da quando abbiamo cominciato a lavorare ad Herat alla fine del 2005, la nostra missione si è limitata alla sola città di Herat con interventi puntuali nell'ambito cittadino, perché i nostri standard di sicurezza non ci consentivano di avviare iniziative al di fuori dell'ambito cittadino. Quindi diciamo che la difficoltà è uscire dai centri abitati e, per così dire, mangiare centimetri all'insicurezza sul terreno per poi poter lavorare in sicurezza. Stefano, voi in particolare seguite, fra le altre cose, anche progetti sulle donne afghane e su questo riscontrate ostilità sul terreno. Quanto è difficile? Beh, è un po' esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a sviluppare programmi di assistenza e formazione professionale ai rifugiati e alle donne rientranti nel paese dall'Iran. Ricordiamoci che gli afghani hanno costituito la più grande comunità di sfollati e rifugiati nel mondo per tantissimi anni. L'abbiamo fatto prima con coloro che rientravano in città e da alcuni mesi a questa parte ci siamo mossi per raggiungere i villaggi e i distretti attorno ad Herat con attività di formazione professionale rivolte anche alle donne, quindi percorsi di formazione per parrucchiere, fotografe, addette a varie attività, perché pensiamo che siano iniziative di cui c'è bisogno del paese, di cui c'è un mercato. Per esempio, una certo. Donna afghana fotografa può partecipare ai matrimoni e fotografare quello che accade in un matrimonio dove certo. Solo le donne sono ammesse. Stefano, l'ultima domanda, poi ti lascio al tuo lavoro. Questo tragico evento quanto cambia nella vostra attitudine, nella vostra voglia di lavorare in Afghanistan? Se cambia qualcosa? Ma noi non stiamo cambiando la nostra attenzione, perché comunque è un'attenzione già abbastanza alta, abbiamo standard di sicurezza abbastanza validi, crediamo. Le nostre due operatrici sul campo espatriate lavorano con uno staff locale affidabile, naturalmente c'è uno scambio continuo quotidiano di informazioni, ci colleghiamo anche con meccanismi di sostegno alla sicurezza delle organizzazioni non governative che sono attivi in Afghanistan proprio per sostenere l'azione delle organizzazioni non governative. Naturalmente c'è molta cautela e pensiamo di superare questo momento difficile. Abbiamo ricevuto anche noi delle minacce per l'attività che svolgiamo nei confronti delle donne, soprattutto lavorando gomito a gomito con le comunità e spiegando bene il significato del nostro intervento, che non è contro l'Afghanistan, non è contro le donne, ma è per un futuro migliore per questo paese. Grazie. Allora, Stefano Pizziali, responsabile sicurezza CESVI, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro a tutti. Ma ora voltiamo decisamente pagina, vi porto in Africa perché oggi si vota in Ruanda, il paese delle mille colline, la Svizzera africana, lo stato che Paul Kagame ha traghettato fuori dal lutto del genocidio del 94 e ha avviato una rinascita economica e sociale. Il Ruanda è al centro della zona dei Grandi Laghi, il cuore ricco e pulsante dell'Africa nera. Uganda, Congo, Kenya, Burundi. Grandi ricchezze, grande povertà insieme, grandi appetiti stranieri. Quale sarà il futuro per la regione africana? Ne parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo intanto che se volete mandare suggerimenti, suggestioni, commenti o domande potete digitare un sms al 349-238-6666, ci trovate su Facebook alla pagina Nessun Luogo è Lontano e poi potete scriverci mail all'indirizzo nessunluogo@radio24.it. La zona dei Grandi Laghi è un luogo mirabile, bisogna esserci stati per capirlo. C'è un verde incredibile che ti acceca da quanto è intenso, c'è una natura che ti stordisce, è una popolazione che ti accoglie con curiosità e mille richieste. Lì tutto è gigantesco. Quando piove scendono secchiate d'acqua, quando il sole brucia, brucia davvero. Tutto è immenso e viscerale. Questa è la prima occhiata, la copertina. Sotto sotto, e quando dico sotto intendo il sottosuolo, ci sono ricchezze. C'è coltan, c'è oro, ci sono diamanti, c'è tungsteno. Ribelli, ci sono ribelli armati, di ribelli ne trovi quanti ne vuoi. Gruppi più o meno grandi, armati più o meno pesantemente, e tutti combattono per un mondo migliore e per abbattere e rovesciare il governo corrotto in carica. E poi ci sono le presenze straniere. Analisti, agenti segreti, imprenditori, multinazionali, inglesi, americani, francesi e cinesi. Su tutto ciò, nella regione dei Grandi Laghi, l'ombra del conflitto etnico, un fantasma che è sempre lì a ricordarci che il fuoco cova sotto la cenere. Ma intanto, siccome Nessun Luogo è lontano, io vi porto in un piccolo villaggio nel cuore della foresta al confine con il Congo, un villaggio che si chiama Obo e che si trova da 2 anni, suo malgrado, sul fronte di una nuova, devastante guerra. Le Tongo attacchi villaggi molto, molto. I Tongo Tongo hanno attaccato molti villaggi per depredare e prendere vestiti e cibo, come manioca e arachidi. Noi siamo dovuti scappare nella boscaglia. I Tongo Tongo hanno i fucili e uccidono. Hanno i macete e tagliano le teste alla gente. Sono così i Tongo Tongo. Questa tragica testimonianza l'abbiamo raccolta pochi mesi fa in un confine, al confine tra il Congo e la Repubblica Centrafricana, in un villaggio chiamato Obo, fondamentalmente assediato da questi ribelli dell'LRA. Do intanto il mio buongiorno a Ugo Borga, fotografo e africanista. Buongiorno Ugo. Ciao Giampaolo, buongiorno. E buongiorno al professor Arrigo Pallotti, docente di storia africana all'Università di Bologna. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, abbiamo deciso di iniziare a raccontare questa grande regione dei Grandi Laghi parlando dei gruppi di ribelli. Diciamo che quello che abbiamo incontrato, il gruppo dell'LRA, non è nuovo, però decisamente sta aprendo uno scenario nuovo lì tra Uganda, Congo e addirittura Sudan. Professore, perché ci sono così tanti gruppi di ribelli in questa zona? diciamo questo, innanzitutto queste sono dire, regioni in cui se pensiamo ad esempio al Congo, lo Stato nell'arco della sua storia dopo l'indipendenza ha perso sempre più il controllo delle periferie, quindi ad esempio tutta la zona dell'est del Congo è una zona in cui la presenza dello Stato è diventata molto, molto labile, questo alimenta la nascita poi di gruppi di ribelli. Accanto a questo dobbiamo dire che alcuni di questi paesi, Uganda, Ruanda e Burundi, sono stati teatro di sanguinosi conflitti, come lei accennava prima, ad esempio il genocidio in Ruanda nel 1994. Questi conflitti hanno portato alla creazione anche questi di gruppi di ribelli che sono attivi in questi territori e che sembra molto difficile riuscire a portare intorno a un tavolo per poter negoziare appunto la fine della loro ribellione. Allora cerchiamo di capire meglio chi sono questi gruppi ribelli che armati di Kalashnikov scorrazzano per le foreste. Ascoltiamo insieme la storia dell'LRA, Lord Resistance Army. Il Lord's Resistance Army di Joseph Kony nasce in Uganda nel 1987. L'obiettivo è il rovesciamento del governo di Kampala. Kony forma una milizia sanguinaria e pronta a tutto e nutre il suo gruppo di ribelli con insegnamenti religiosi, richiami ai 10 comandamenti e componenti mistiche. Riti prima della battaglia sono assai comuni tra i guerriglieri. Le armi vengono dal Sudan. L'LRA è tristemente noto per la ferocia dei suoi attacchi e il reclutamento di giovanissimi tra le sue fila. Durante i saccheggi dei villaggi, non solo in Uganda, ma anche in Congo, Sudan e Repubblica Centrafricana, violenta le donne, uccide indiscriminatamente e rapisce ragazzi e ragazze per reclutarli a forza o trasformarli in schiavi. Negli ultimi anni, dopo la distruzione di alcune basi in territorio ugandese, l'obiettivo dell'LRA è diventato la mera sopravvivenza. Gruppi sparsi di ribelli, anche molto piccoli, si muovono nella boscaglia, nella foresta della regione, attaccando i villaggi più indifesi, a caccia di cibo e uomini. E la parola d'ordine è terrore. Da alcuni mesi, alcune migliaia di soldati ugandesi, supportati dagli Stati Uniti, sono entrati in territorio centrafricano a caccia di ribelli e soprattutto del leader Joseph Kony e dei due suoi luogotenenti, Okoto Odhiambo e Dominique Ongwen, responsabile del massacro di 320 persone in un villaggio del nord del Congo nel dicembre dell'anno scorso. Per i ribelli dell'LRA, tranne i tre super ricercati, è prevista l'amnistia, ma Joseph Kony, per ora, rimane un fantasma. Allora, Ugo Borga, i ribelli dell'LRA hanno una caratteristica distintiva. Hanno il più alto impatto, numero di componenti, terrore sulla popolazione. Che cosa significa questo? Beh, significa che sono sufficienti pochissime unità, anche composte magari da 5 ribelli che entrano in un villaggio e provocano un esodo, l'esodo intero magari di migliaia di persone, proprio perché i loro attacchi, le modalità insomma del loro fare la guerra sono estremamente feroci, quindi è normale che la popolazione non tenti neanche di difendersi, nella maggior parte dei casi, abbiamo visto che a Obo non va proprio così, però nella maggior parte dei casi la gente preferisce scappare. Ecco, dicevi, abbiamo visto che a Obo non è così perché questo piccolo villaggio in realtà ha iniziato ad armarsi, a creare una milizia di autodifesa che, come dire, segue come quella che è, no, il fai da te tutto africano nell'arrangiarsi, magari nell'assenza dello Stato, ci si dice, beh, ci si difende, però può portare a conseguenze che sono esatto, drammatiche. Esatto, le conseguenze poi le abbiamo viste, no? Quando nel momento in cui, per esempio, questi partigiani, in qualche modo, i difensori delle comunità, riescono a entrano in contatto con le milizie, con i guerriglieri dell'LRA e ottengono un piccolo successo, poi le ritorsioni del gruppo sono terrificanti, per cui bisognerebbe capire se armarsi e tentare di difendersi ha qualche senso oppure se è più giustificata in qualche modo una fuga veloce. Tra l'altro organizzare dei gruppi armati, dei nuovi gruppi armati, anche se insomma con finalità puramente difensive in quelle zone è sempre pericoloso, bisogna poi vedere chi riuscirà a disarmarli. Grazie Ugo, torniamo su Radio 24, Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. E oggi, mentre 5 milioni di ruandesi si recano alle urne per quello che molto presumibilmente sarà un vero e proprio plebiscito verso il secondo mandato di Paul Kagame in Ruanda, stiamo cercando di capire quali sono gli attori che stanno giocando nella scacchiera dei Grandi Laghi, quali pezzi stanno muovendo. Siamo partiti dalla massiccia presenza di armi e di gruppi ribelli. Ancora, Ugo Borga, noi ci siamo conosciuti in Congo nel novembre del 2008, ebbene tu lì sei riuscito a viaggiare molto più di me, sei andato molto a nord, nel Nord Kivu, e hai incontrato parecchi gruppi ribelli. Si riesce a capire quanti sono solo nel Nord Kivu? Può fare una stima approssimativa, diciamo che sono una ventina. Il problema è che quelli, insomma, stanziati più o meno stabilmente nel Nord Kivu. Il problema è che ci sono anche altri gruppi come l'LRA, come l'ADF, eccetera, che ogni tanto entrano in questa zona proprio perché, per quello che diceva prima il professore, perché questa zona è fuori controllo e l'esercito, per di più, si comporta molto spesso esattamente come delle milizie ribelli, per cui l'impatto sulla popolazione è terrificante. Comunque, se più o meno possiamo stimarli in una ventina. Fra l'altro, una ventina di gruppi ribelli, ma alcuni contano, che so, un centinaio di miliziani, altri arrivano magari a 500, un migliaio, per cui è molto eterogenea. Tu facevi un accenno, un riferimento che a volte gli eserciti governativi, come dire, utilizzano magari campi profughi per fare approvvigionamento o altro, e questo denuncia quella che è una delle caratteristiche di quelle che le milizie, ma anche i gruppi ribelli africani, cioè l'assenza di logistica, cioè non hanno camion, non hanno supporto logistico, per cui fondamentalmente vivono del territorio che in cui vanno. Certo, non disponendo di una logistica che gli fornisce vettovaglie, rifornimenti, eccetera, eccetera, sono obbligati in qualche modo a intervenire su quella che è l'economia locale, no? Che è un'economia spesso di mera sussistenza, insomma, di piccole prodotti agricoli o d'allevamento, ma tutte cose che servono, che sono indispensabili proprio solo a sopravvivere. E questo in qualche modo è anche legato all'altissimo numero di vittime che queste guerre, che per altri versi hanno modalità in qualche modo medievali, insomma, non si parla di artiglierie pesanti, non si parla di aviazione, eccetera, però purtroppo hanno poi come conseguenza la morte di milioni di persone, spesso per fame. Sì. Ugo, grazie intanto, noi ci sentiremo sicuramente presto. Volevo lasciarti però con una domanda: è vero che tu in Congo sei riuscito a barattare con un cellulare, stavi prendendo un Kalashnikov? Sì. Hai fatto questo esperimento? Certo, infatti questa è una delle cose che ci eravamo raccontati poi quando ci siamo trovati. In Congo ci è stato proposto di acquistare, in qualche modo di barattare un Kalashnikov al posto di un telefonino, probabilmente perché questo miliziano aveva voglia di chiamare casa, però questo dà un'indicazione, insomma, sulla disponibilità di armi che c'è in quella regione. Che uno insomma dei grandi problemi di questa zona. Grazie Ugo Borga, una buona giornata, un buon lavoro. A presto Giampaolo, grazie a te. Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda, they said many are called, a few were chosen, But I wish some wasn't chosen. E la colonna sonora di questa puntata è il soundtrack di Hotel Rwanda, un film drammaticissimo, bellissimo, che racconta di quei tragici mesi del 1994. Professor Pallotti, allora abbiamo toccato, abbiamo accarezzato il tema del conflitto etnico, perché in parte è collegato alla presenza militare in questi 4-5 stati. Vorrei tornarci sopra, ascoltiamo insieme che cosa mi ha detto proprio nel novembre del 2008 il responsabile dell'ufficio turismo di Goma, quando io gli ho chiesto, insomma, lui di dove fosse. Cercavo di capire, sì, l'ho fatto, cercavo di identificarlo dal punto di vista etnico. Moi je suis originaire d'ici de Kivu. Je me réserve mais turquin, je suis congolais tout court. Lui dice: io sono originario del sud Kivu. Dice: no, io mi riservo di rispondere perché in fondo sono congolese tout court. Beh, mi sembra una risposta fantastica, professore. Professor Pallotti? No, la linea di... Eccolo, sì, adesso la sentiamo meglio. Risposta molto bella, perché appunto mette come priorità il far parte di una unica nazione, che è appunto quella del Congo. Dobbiamo ricordarci che appunto queste regioni dell'est storicamente sono state il teatro della ribellione delle forze seguaci di Lumumba durante la guerra civile degli anni 60. Oggi rimangono territori estremamente conflittuali, proprio perché su di essi, da una parte, c'è il tentativo di estrarre risorse naturali e quindi poi di arricchimento, e dall'altra il grande problema dell'accesso alla terra. Queste regioni, che sono sempre state il punto di arrivo di grandi migrazioni nella storia dei grandi laghi, queste regioni oggi, in seguito poi anche al genocidio, stanno sperimentando delle enormi pressioni sull'accesso a quella che è la risorsa più importante per quella che è la maggioranza dei contadini, l'accesso alla terra. Come sì. Si definisce, in base a quale cittadinanza? Allora, abbiamo citato il genocidio per chi non conoscesse quella drammatica pagina di storia del 1994. Successe che in 3 mesi gli Hutu, al grido di Hutu Power, in qualche modo andarono a cacciare, a stanare i Tutsi, ma anche che era l'etnia avversa, ma anche gli Hutu moderati, quelli che cercavano un dialogo con questa componente. In quel caso, diciamo, se dovessimo, come dire, fare un bilancio della pesante eredità di quel genocidio, da un lato ci fu un Occidente che non ha mosso un dito, addirittura la Francia, come dire, ha delle corresponsabilità molto forti. Dall'altro ci dà il destro, professore, per ragionare, ma quella mia domanda aveva un senso: esistono gli Hutu, esistono i Tutsi, cioè di cosa stiamo parlando esattamente? Cioè, la domanda è complessissima, cercherei di risolverla in maniera semplice e chiara tentando di dire questo. In periodo coloniale, delle identità culturali che erano quelle presenti in Ruanda e in Burundi vengono manipolate dai tedeschi prima e soprattutto dai belgi poi, per creare delle identità ormai fisse nel tempo, Hutu e Tutsi. Quindi dobbiamo ricordarci una cosa molto semplice: gli Hutu e Tutsi si sposavano tra di loro, parlano la stessa lingua, eccetera. Arriva il colonialismo, blocca ogni possibilità di movimento sociale, di cambiamento. Ci sono gli Hutu e Tutsi, e i Tutsi vengono privilegiati nel potere. Ecco, detto in maniera molto semplice, sì, i motivi che porteranno la rivoluzione degli Hutu contro i Tutsi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, e poi il lungo periodo di predominio Hutu sulle istituzioni politiche del Ruanda. Questo predominio finisce nel 1994, quando appunto durante il genocidio la grande ribellione guidata da quello che oggi è il presidente Paul Kagame rimuove il governo Hutu da Kigali e di fatto prende il controllo del Ruanda. Allora, la strumentalizzazione dell'etnia e la presenza straniera sono tematiche che ritornano continuamente, che sono fortemente presenti in questa regione e sono anche estremamente collegate, perché quando nel 2008 il generale ribelle Tutsi Laurent Nkunda voleva marciare su Goma, all'inizio faceva proclami anti-Hutu, diceva io sono il grande generale dei Tutsi, salvo poi dirottare verso discorsi più ecumenici dicendo ma no, in fondo io sono congolese, eccetera. Però per dire quanto gli stranieri entrano, allora Laurent Nkunda ha avuto questa grandissima escalation militare 2 anni fa quando il governo congolese di Kabila ha firmato un accordo di 5 miliardi di dollari per lo sfruttamento del coltan con la Cina. E qua entra, come dire, in gioco un nuovo attore su questo complicato scacchiere. Professore. Certo, certo. Solo una cosa. Certo, Nkunda si presentava come il grande, appunto, difensore dei Tutsi, che sono proprio quelli che, andati a vivere in Congo nei decenni precedenti, con l'arrivo dei rifugiati Hutu che scappano dal genocidio o dal Ruanda ormai nelle mani di Kagame, creano proprio l'insicurezza, no? Del loro accesso alla terra e della loro sopravvivenza nel Congo. I cinesi sono, come dire, in questi ultimi anni i grandi protagonisti dello sviluppo in Africa. Per quale ragione? Perché qui c'è un problema enorme sotto. I cinesi, il governo cinese sovvenziona e mette a disposizione dei governi africani dei generosissimi programmi di aiuto, quindi per la costruzione di strade, per la costruzione di infrastrutture, per l'avvio di progetti agricoli, eccetera, e in cambio non chiede delle contropartite di natura politica, la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani, eccetera. Nel caso del Congo è stato firmato questo grande accordo per 6,5 miliardi di dollari e le regioni dell'est cosa dicono? Noi rimaniamo fuori però da tutto questo. Allora, di Cina, di imprenditori cinesi e del loro impatto nella zona dei Grandi Laghi e più in generale dell'Africa, ritorniamo tra pochissimo con uno che li ha fotografati a lungo e ha fatto un lavoro esemplare e incredibile. Adesso l'informazione sul traffico e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. La mano lunga di Pechino che si allunga nella zona dei Grandi Laghi non è una novità, ormai lo sta facendo da alcuni anni, lo fa a suon di miliardi perché insomma arrivano con potenti mezzi e stanno cambiando il volto dell'Africa. Chi lo ha fotografato in maniera molto bella è il fotoreporter Paolo Woods. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Allora Paolo, tu hai fatto questo, hai lavorato in Congo per parecchi mesi e poi hai pubblicato questo libro in collaborazione con il tuo collega Michel che si intitola Cina Africa e che fotografa, è il caso di dirlo, molto bene quella che è la presenza cinese nel continente nero. Fra le altre cose, tu sei stato poi tacciato di essere un po' filo cinese. Sì, sì, senz'altro. Perché per me era una storia interessantissima da raccontare e sono un po' in disaccordo con quello che diceva il professore del prima, perché viene sempre visto l'influenza, l'arrivo dei cinesi come una cosa negativa e ha senz'altro alcuni lati negativi ma anche enormi lati positivi. Quando si parla dell'Occidente, dell'influenza dell'Occidente, quello che succedeva spesso è che compagnie occidentali, per esempio in Angola o in Nigeria, andavano, prendevano il petrolio e come contropartita pagavano i dittatori e questi soldi finivano su dei conti svizzeri. Oggi invece quello che succede, arrivano i cinesi e invece di pagare i dittatori propongono in cambio dei lavori, delle infrastrutture. Sì. E ci sono tanti problemi, però in effetti si vede dovunque in Africa oggi nuove infrastrutture che vengono create, da strade a ferrovie, a ospedali, a dighe, che ce n'era un bisogno enorme, c'era un grande bisogno di sviluppo e come ci hanno spesso detto in Africa, la democrazia purtroppo non si mangia. Che è una grandissima verità. Professore, cosa risponde all'obiezione di Paolo? Fra l'altro volevo aggiungere che in effetti ho visto con i miei occhi a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, le strade fatte dai cinesi e questo gigantesco stadio di calcio che è vero una cattedrale nel deserto al momento, però è anche vero questo, che loro costruiscono quelle infrastrutture che nemmeno l'Europa coloniale era poi riuscita a fare in secoli di dominazione. Professore. Sì, questo senza dubbio è vero, però ecco, alla frase, come dire, la democrazia non si mangia, che è molto vera, io ribatterei che però la democrazia si vuole, difficile trovare africani che non vogliano, no? Incontrarli che non vogliono la democrazia e un certo benessere. Quindi direi questo per problematizzare il ruolo della Cina. Da una parte i cinesi sfruttano quello che le istituzioni finanziarie internazionali hanno detto ai governi africani di fare da 30 anni a questa parte, attirare investitori stranieri. I governi africani l'hanno fatto e adesso arrivano gli investitori stranieri con i loro capitali. Questo è, come dire, il grande autogol di una certa visione dello sviluppo che non ha problematizzato poi gli effetti di questi investimenti. E dall'altro il grande problema: questi investimenti realmente creeranno posti di lavoro e maggior benessere per la grande massa dei contadini africani? Ecco, io su questo ho diversi dubbi. Su questo lei mette un grande punto di domanda. Una cosa è certa, che quando i cinesi arrivano in Africa lo fanno in grande stile, ma a volte, Paolo, lo fanno passo passo, nel senso che arrivano magari con una piccola attività, con un piccolo business che poi si implementa e diventa gigantesco nel giro di pochi mesi. Sì, quello che noi spesso vediamo, pensiamo semplicemente alla Cina che arriva in Africa come imprese, ditte statali, come grandi investimenti dello Stato cinese, e questo esiste, ma esiste anche un altro lato, perché spesso per i cinesi l'Africa è una terra di possibilità, non è un continente alla deriva, è un nuovo Far West, un po' si sentono come pionieri nell'America nell'Ottocento. Quindi io, per esempio, in Congo, ne parlavate prima, ho visto una signora che era arrivata nel 2000, Jessica Ye, è arrivata nel 2000 senza un soldo, parlava un poco di francese, quindi era stata assunta come traduttrice su un cantiere cinese, e a 10 anni di distanza oggi ci sono 90 membri della sua famiglia cinese che sono venuti a vivere con lei in Congo, e gestiscono tutto dall'import-export del legname e del cemento, hanno ristoranti e casinò, hanno fabbriche di sigarette ed infissi, hanno un vero impero che dà lavoro a centinaia di persone. Quindi e non è soltanto il sogno di lo Stato cinese, esistono anche cinesi poverissimi del Sichuan, delle regioni interne, che vedono l'Africa come una terra di possibilità. Professore, il sogno africano, allora, in qualche modo che si concretizza nelle teste di tanti piccoli imprenditori cinesi che cambiano vita e vanno, invece che andare in America, insomma, vanno in Africa. Sì, certo, bisogna anche metterlo, come dire, tutto questo in un certo contesto storico. A chi dice no, la Cina arriva in Africa, bisogna sempre rispondere: la Cina dall'Africa non è mai partita, perché in realtà già durante gli anni 60, gli anni 70 i cinesi erano presenti sostenendo governi, sostenendo movimenti di liberazione, quindi da un certo punto di vista hanno sempre mantenuto strette relazioni con almeno un certo numero di governi africani. Sì, fra l'altro, ecco, su questo, giusto per fare una notazione, come dire, tragicamente di colore, io stesso ricordo di aver visto dei Kalashnikov cinesi, ci sono anche quelli di fabbricazione cinese, però in mano a alcuni guerriglieri c'erano i Kalashnikov di imitazione. Funzionano, assolutamente, però insomma, per dire quanto la Cina sia dietro poi. Sì, ha sempre avuto queste relazioni politiche, ha sempre investito massicciamente, pensate a tutta la grande ferrovia che da Dar es Salaam in Tanzania arriva fino allo Zambia, costruita negli anni 70, c'è sempre stata. Adesso la Cina è vista da molti, soprattutto a livello di elite africana, come il miracolo economico da imitare, quindi se addirittura i governanti, il governo di questo miracolo economico tende una mano all'Africa, perché non prenderla? Allora, Paolo Woods, ti sei occupato di Africa, ma poi tanto anche di Iran, di Medio Oriente, eccetera. Tornerai in Africa, ti occuperai ancora di questo magico continente o no? Ma senz'altro tornerò in Africa. Per ora vado a lavorare in un pezzetto di Africa, però nei Caraibi. Vado a lavorare ad Haiti, che è un paese popolato da schiavi che venivano dal Benin, però tornerò anche in Africa, senza dubbio. Grazie allora, Paolo Woods, per essere stato con noi. Grazie, un buon lavoro. Voi anche, grazie. Allora, professore, volevo chiudere in qualche modo quello che è il tratteggio che stiamo tentando di fare questa puntata in Nessun Luogo è Lontano, perché abbiamo parlato di questa scacchiera, che è quella dei Grandi Laghi, dove gli attori fondamentali a questo punto, dal punto di vista degli attori stranieri, paiono essere la Cina da un lato, l'America dall'altro, perché i francesi sono stati in qualche modo estromessi dal gioco, no? Non muovono più un pezzo. Beh, sì, la loro presenza è stata oggettivamente indebolita dalla loro condotta nei primi anni 90, cioè durante, come dire, i prodromi del genocidio, durante il genocidio. I francesi hanno di fatto sostenuto fino all'ultimo il governo di Abiarimana in Ruanda, e poi con con un'operazione cosiddetta umanitaria, aprirono un corridoio che permise poi ai responsabili Hutu da genocidio di scappare in Congo. Sì, fra l'altro scapparono quella che si chiama Interahamwe, cioè che era questa milizia feroce che si era armata appunto per effettuare quella tragica missione. Allora, l'altro attore è l'America. Allora, la Cina, come dire, ha preoccupazioni di tipo economico, arriva per fare cassa, anche ammodernare il paese, per carità, però insomma fa per investire, per fare industrie, fare strade, eccetera. L'America ha altre preoccupazioni, anche quando supporta l'Uganda, ad esempio, nella sua missione in Somalia o nella sua missione contro l'LRA, si preoccupa più della sicurezza in qualche modo o no? Certo, la grande preoccupazione in tutta l'arco dell'Africa orientale degli Stati Uniti è essenzialmente quella della lotta al terrorismo internazionale. Uno dei grandi appunto teatri è quello della Somalia, in cui però fino ad adesso non si sono riusciti a registrare dei grandi successi, anche per l'enorme complessità della situazione locale. E dall'altra però è interessante appunto vedere come lentamente si sia instaurato un dialogo appunto con ad esempio il governo sudanese, sempre in chiave di lotta al terrorismo internazionale, e da questo punto di vista bisogna anche dire che appunto l'LRA, cioè l'Lord's Resistance Army, è in grande difficoltà proprio perché ormai c'è una coalizione regionale per farlo fuori. Sì. Professore, in chiusura, in estrema sintesi, che orizzonte, che cosa possiamo ipotizzare per questo scacchiere? Oggi abbiamo tentato veramente di tratteggiare con grande sforzo di sintesi quello che potrebbe essere il futuro della zona dei Grandi Laghi, un futuro virtuoso pur con le ombre, diciamo, che come quello che si sta prospettando in Ruanda, perché c'è una democrazia un po' offuscata, però in omaggio a una grande ripresa sociale ed economica. E gli altri paesi, il Burundi, l'Uganda, il Congo, che futuro vede lei? Ma allora diciamo questo, innanzitutto direi che Kagame vincerà probabilmente le elezioni in Ruanda. Il grosso, secondo me, il grosso punto interrogativo riguarda il Congo, cioè il consolidamento della democrazia e lo sviluppo economico del Congo, questo è il grande paese della regione. Su questo bisognerebbe oggettivamente che la comunità internazionale fosse molto più coinvolta, ecco, che non lasciasse solo mano libera agli investitori, a pochi investitori, ma ci vorrebbe un programma oggettivamente organico per aiutare il Congo a consolidare democrazia e sviluppo. Burundi, il problema, come dire, è per certi versi speculare a quello del Ruanda, cioè in questo momento c'è un governo forte, tra l'altro di ex ribelli, che però non sembra garantire libertà democratiche all'intera popolazione, però è chiaro che anche il Burundi bisogna stabilizzarlo. Poi l'Uganda è evidentemente avviata anche questa ad un certo consolidamento, per cui sarei globalmente abbastanza ottimista. Allora, parola d'ordine, stabilità, grazie al professor Pallotti, docente di storia africana all'Università di Bologna, per essere stato con noi e aver tentato di analizzare questo complesso scacchiere. Una buona giornata. Grazie mille. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E allora abbiamo il tempo di far ruotare il mappamondo per vedere che cosa sta accadendo in queste ore. Corea del Sud, un rimpasto governativo. Il presidente sudcoreano Lee Myung-bak ha sostituito il premier e 7 ministri nel più importante rimpasto di governo dal suo arrivo al potere nel febbraio del 2008. Questo avviene proprio in momenti, in ore drammaticamente di alta tensione, perché l'artiglieria nordcoreana è entrata in azione oggi nel Mar Giallo, nelle acque confinanti con quelle della Corea del Sud. Se ci avete seguito, ricorderete alcuni giorni che diamo notizia anche delle manovre navali congiunte Sud Corea-Stati Uniti in quella zona, che tanta tensione stanno creando. Vi porto poi in Irlanda del Nord, dove è stata disinnescata la terza bomba contro un'auto della polizia, il terzo attentato in meno di una settimana. L'ordigno era stato attaccato al di sotto di un'auto di una poliziotta a Kilkeel, nella contea di Down, vicino Belfast. Un episodio analogo era stato mercoledì ai danni di un militare, mentre un'autobomba era effettivamente esplosa il giorno prima davanti al commissariato di Londonderry o Derry. E poi vi porto dall'altro lato del mondo, in Colombia. dove il neopresidente Santos dice possibile un paese in pace e senza guerriglia. Ai gruppi armati illegittimi che accampano ragioni politiche e tornano un'altra volta a parlare di negoziati, voglio dire che la porta del dialogo non è chiusa a chiave. Lo ha assicurato sabato il neopresidente Juan Manuel Santos nel suo primo discorso pronunciato dopo aver assunto il potere, davanti ad almeno 5.000 invitati, tra cui una centinaio di delegazioni straniere. Quanto al contenzioso con il Venezuela, di cui vi avevamo dato conto nella settimana trascorsa, il presidente Hugo Chavez aveva deciso la rottura dei rapporti diplomatici con la Colombia dopo delle dichiarazioni un po' forti di Uribe. Uribe aveva detto che Chavez consentirebbe la presenza nel suo territorio di 1.500 guerriglieri delle FARC. E allora il neo capo di Stato getta acqua sul fuoco e dice: sono disposto a ristabilire la fiducia tra i due paesi. Vedremo. E ancora in America, l'ultimo WhatsApp di oggi: poliziotti contro i colleghi corrotti dai narcos. Una vera e propria rivolta a Ciudad Juárez. Sono stati destituiti i vertici della polizia locale. Almeno 4 ufficiali di polizia nella cittadina del nord del Messico sono stati rimossi dal loro incarico dopo un assalto alla loro caserma fatto da 300 colleghi a volto coperto. Tra gli arrestati, Salomón Alarcón, detto lo sciamano, accusato di praticare estorsioni ai danni della popolazione civile e dei suoi stessi agenti. E questo era il WhatsApp di oggi. Tempo scaduto, non mi resta che ringraziare Paolo Corleoni in regia, Valeria Coffaro in redazione, darvi appuntamento domani 13:15, ricordandovi che nessun luogo è lontano.